è un verbo usato dall'Apostolo Paolo per definire il rapporto che Dio ha con lui, che mi ha sempre affascinato e spesso torna alla mia mente. Lasciarsi prendere così da un verbo sembra fuori luogo, perché di parole e di verbi Paolo ne ha abbondato nelle sue lettere. Ma, poiché io credo fermamente che Paolo abbia scritto come tutti gli scrittori biblici sotto l'impulso dello Spirito Santo, ogni parola e ogni verbo hanno per me un valore particolare. Come, del resto, si apprezzano certe espressioni appartenenti a poeti e scrittori particolarmente dotati nella propria lingua. Chi non ricorda la famosa frase di Dante, quando a Virgilio nel rivolgersi a Caronte fa dire «vuol sì così, colà dove si puote». Ma una cosa è notare le capacità linguistiche di uno scrittore, altra è notare le giuste parole e i giusti verbi espressi da credenti cristiani nell'ambito della fede. Quando Paolo scrisse, nella lettera ai Galati, «se cercassi ancora di piacere agli uomini non sarei servitore di Cristo», in quell'ancora, Paolo, con una sola parola, ha voluto mettere in evidenza che, prima di credere in Cristo, la sua vita era tesa a cercare il favore delle persone. Questo è un grande insegnamento per chi serve Cristo Gesù. Qual è dunque il verbo impiegato da Paolo per definire il rapporto che Dio ha con lui? Il verbo è somministrare e lo troviamo nella seguente espressione biblica, tratta dalla versione Luzzi. A quelli che sono ricchi in questo mondo ordina che non siano di animo altero, cioè orgogliosi, che non ripongano la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio il quale ci somministra copiosamente ogni cosa perché ne godiamo. 1 Tim 6.17. Ma non tutte le traduzioni della Scrittura usano questo verbo. Nuova Diodati Dio ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Nuova Riveduta Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo. Edizioni S. Paolo Dio, che ci provvede abbondantemente di tutto. Salvatore Garofalo Min Dio, che ci fornisce tutto in abbondanza. Bibbia Concordata Dio, che ci provvede abbondantemente di tutto. Giuseppe Ricciotti Dio, che ogni cosa ci somministra copiosamente. Bonaventura Mariani Dio, che ci procura tutto copiosamente perché ne godiamo. Fulvio Tardoni Dio, che ci dà in abbondanza ogni cosa finché ne godiamo. La vecchia Diodati, punto nel Dio vivente, il quale diporge doviziosamente ogni cosa. Nuovo Testamento. Bibbia Cei Dio, che ci tutto ci dà in abbondanza perché ne possiamo godere. Bibbia di Gerusalemme Dio, che ci tutto ci dà in abbondanza perché ne possiamo godere. Queste diverse traduzioni mettono in evidenza una cosa: la cura di Dio nei confronti dei suoi figli. Ciò che provvede per loro è in abbondanza e perché possano goderne. Questo solo primo aspetto, se preso sul serio, è veramente straordinario e consolatore. Infatti la ragione di fondo delle lamentele dell'essere umano è proprio la penuria o l'insufficienza delle cose. Abbiamo da mangiare, ma non ci basta. E, se anche ci basta, non è quello che vogliamo. Abbiamo da vestirci, ma non ci basta, perché non abbiamo il vestito all'ultima moda. Abbiamo un tetto dove vivere, ma è insufficiente, perché è piccolo e non adeguato ai nostri desideri. Abbiamo di che svagarci, ma non siamo soddisfatti del nostro svago. Abbiamo una famiglia, ma ne vorremmo un'altra. Questa è la situazione normale dell'incredulo, e che purtroppo si trova anche in molti figli di Dio. Ma se c'era uno che aveva tutte le ragioni per lamentarsi, era proprio l'Apostolo Paolo, il quale, oltre tutte le vicissitudini dolorose della vita, aveva anche una sofferenza fisica non indifferente, un dolore da lui definito una scheggia nella carne, eppure testimoniava al proprio figlio spirituale che Dio gli somministrava ogni cosa abbondantemente perché potesse goderne. Quindi l'esperienza di Paolo era di un'esistenza vissuta nell'abbondanza. E lo si comprende in tutte le sue lettere, nelle quali ordina ai credenti di essere sempre riconoscenti a Dio. Ora, una persona non può essere riconoscente se è cosciente di vivere nella penuria, Ma delle varie versioni del testo in questione, benché mettano tutte in evidenza l'abbondanza nella quale si trova il cristiano, una sola spiega come Dio provveda a questa abbondanza. All'infuori della Bibbia di Ricciotti, le Bibbie esprimono il concetto che Dio dà, provvede, fornisce, porge, offre, ogni cosa al credente, verbi questi che in fondo esprimono l'idea di uno che si preoccupa di un altro. E questo è vero. Quando Gesù disse di non preoccuparci del mangiare e del vestire, lo affermò perché Dio sa che di questo abbiamo bisogno. Per cui, se non abbiamo il necessario, questo rientra nel volere di Dio. Infatti, molti credenti a causa del Vangelo di Cristo soffrono ancora oggi tante sofferenze e penurie, allo scopo che Dio sia glorificato tramite le giuste sofferenze, e perché questi credenti abbiano una migliore resurrezione. Ebi 11.35, cioè premi in abbondanza. Ciò che distingue la versione della Bibbia Ricciotti è il verbo somministrare. Questo verbo porta subito alla mente un qualsiasi ammalato al quale viene somministrato un farmaco. Difficilmente diciamo che l'infermiera ha dato o provveduto un farmaco al paziente, perché meno, anche se sono sinonimi, meno questi verbi hanno sfumature diverse. Ho capito bene questo aspetto quando sono andato in un centro diabetico, a causa della mia glicemia alta, in uno dei tanti volantini di informazione a disposizione dei pazienti. Era scritto: prima mangiavi, ora devi nutrirti. Due verbi, mangiare e nutrirsi, apparentemente dallo stesso significato, ma recanti in sé una grande diversità, da me immediatamente colta. Mangiare significa cibarsi in un modo che può essere anche disordinato, mentre nutrirsi significa cibarsi con un certo discernimento. Così è il verbo somministrare rispetto ai verbi provvedere, fornire, porgere o dare. Che Dio ci somministra copiosamente ogni cosa perché ne godiamo non vuol dire che ci dà ogni cosa in modo abbondante, senza tener conto della sua eventuale nocività, e neppure che ci offre ogni cosa abbondantemente, lasciando a noi la responsabilità di capire come dobbiamo gestirle. Ma, conoscendo le nostre inclinazioni distorte, ci dà, provvede, fornisce, porge e offre ogni cosa, nel momento e nella a Nuovo Testamento giusta. Quantità e momento che si trovano pienamente spiegati nel verbo somministrare. Così il mio mangiare, il mio vestito, il mio bisogno di affetto, la mia salute, il mio sonno, mi viene amministrato da Dio. Cosa vuol dire? Significa che, quando mi trovo in distrette economiche e mi vedo in brutte acque, sono forse tentato di rimediare mediante espedienti non tanto leciti, e proprio quando sto barcollando nel dubbio e nel totale buio, ecco che un improvviso aiuto arriva. Dio mi ha amministrato ciò che era necessario, come un'infermiera somministra il farmaco al momento opportuno e nel giusto dosaggio. Che Dio mi somministra copiosamente ogni cosa vuol dire anche che, se realizzo il disprezzo come Cristo, se mi trovo accusato di pazzia per l'Evangelo come Cristo, se il bisogno naturale di affetto viene a mancare, ecco che quando sono nello sconforto più totale, quando ormai ho lasciato ogni speranza come Abramo e Sara che non potevano avere figli, un apprezzamento fuori luogo, una lettera di incoraggiamento, un'espressione di affetto inaspettato, perché avere spesso tutto solo all'ultimo istante? Perché avere una vita pregna di tensioni causate dalle necessità più o meno pressanti e ricevere gli aiuti quando ormai non hai più speranza? Perché avere continuamente l'acqua alla gola per i bisogni più urgenti e poi, all'improvviso, vederne arrivare la risoluzione, per ritornare in seguito ad aver l'acqua alla gola e rivedere di nuovo il soccorso in extremis? Noi cerchiamo sempre una risposta ai nostri perché, ma a volte non è opportuno. Il saggio Salomone disse: non dire come mai i giorni di prima erano migliori di questi, poiché non è da saggio domandarsi questo. Eccoci 7:10. Però alcune risposte si possono dare. Prima di tutto, spesso Dio interviene all'ultimo minuto perché se ne possano conoscere alcune caratteristiche. Io non posso conoscere la misericordia del mio vicino, fino a quando il mio cane non uccide due galline del suo pollaio e lui con molta comprensione rinuncia a chiedermene risarcimento. Come? Non posso conoscere l'amore del mio fratello in fede fino a quando non lo insulto. E lui mi contraccambia invitandomi a pranzo per dimostrare che non è offeso. Il mio vicino e il mio fratello in fede sono comprensivi e pieni di amore, ma io posso conoscere tali aspetti solo se sono mancante nei loro confronti. Così quando Dio interviene all'ultimo momento è per dimostrare che lui fa la piaga, ma poi la fascia, ferisce ma le sue mani guariscono, GB 5.18, significa che vede e interviene, per poi suscitare in me una fiducia in lui verificata e non teorica, più preziosa, dell'oro che perisce. Le distrette e le necessità impellenti, i casi umanamente irrisolti sono strumenti di Dio per dimostrare la sua potenza, la sua gloria e il suo amore. Darci il giusto, al momento giusto, nella quantità giusta, è uno degli interventi preferiti di Dio. L'intervento di Dio all'ultimo momento ci rende anche sempre più consapevoli che ogni aspetto della nostra esistenza è sotto al suo controllo. E perciò la nostra dipendenza da Lui deve essere totale e senza riserve, somministrandoci ogni cosa. Al momento che Lui ritiene adatto, Dio ci insegna soprattutto di avere gli occhi fissi su Lui. Questo ultimo aspetto riporta alla mia mente la scena del cane, che fissa il suo padrone quando gli somministra il cibo. Scodinzola, abbaia, saltella, non riesce a mantenere la sua gioia. Non così fanno invece gli animali feroci quando divorano la loro abbondante preda. Una vita senza riconoscenza nei confronti di Dio disonora sia Lui sia ciò che da Lui ci è somministrato e in questo senso si diventa peggio delle bestie. Io vedo che Dio nella mia vita dà, provvede, fornisce, porge e offre, ma soprattutto e con un amore incomprensibile mi somministra ogni cosa affinché possa goderla. Dopo questo non ho parole. Marzo 2011, Ellero.